Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. I numeri di chi lavora e si spacca la schiena nei campi parlano anche solo di un euro per riempire una cassetta di mandarini, 50 centesimi appena, per una di arance, numeri davvero lontani dal business miliardario che ruota attorno all'agroalimentare. 8 miliardi di euro di fatturato l'anno e la CGIL Fly stima che non meno di un miliardo viene mangiato dalla fabbrica dei caporali. C'è da fare invidia a veri e propri business criminali, con i braccianti costretti a pagare il pizzo a volte persino legalizzato sulle paghe. Secondo il sindacato, non meno di 400 milioni di euro l'anno vengono sottratti ai braccianti da intermediazione, trasporto, vitto e alloggio. Sembra esserci un vuoto di tutele e controlli in ogni punto della catena che porta migliaia di persone a spaccarsi. Sì, sembra un termine arcaico, sembra attinto da romanzi d'appendice, da cronache del dopoguerra, il caporale, mi fa venire in mente, non so, il film delle Mondine, mi fa venire in mente dei film legati ai braccianti agricoli, le terre maledette, però è un fenomeno attuale, tanto che l'ha detto Renzi l'altro giorno, alla festa del PD, disintegriamo il caporalato. È un termine antico, arcaico, ma però affonda le radici, una realtà molto ben tenacemente abbarbicata in certi territori. Chi è il caporale? Il caporale è quello che sfrutta i braccianti, soprattutto i braccianti, ma in realtà anche varie categorie di lavoratori, li copta, prende lui un rapporto diretto con il datore di lavoro e si prende una percentuale alta, a volte addirittura il 50%, rispetto a quella che è la loro fatica. Visto che il tema immigrati è un tema molto sensibile in questo momento, anche molto dal punto di vista emotivo, emotivamente sentito, rendiamoci conto che ci sono ancora in Italia caporali, ci sono ancora braccianti sfruttati. Non sembra un discorso antico questo, di antiche rivendicazioni sociali, termini antichi, no, realmente, purtroppo, attualmente, e le vittime dei caporali non sono soltanto stranieri, non sono soltanto i braccianti che vanno a lavorare, a raccogliere i pomodori nei nostri campi, no, sono anche nostri concittadini che per lavorare a certe latitudini, in certe condizioni, devono passare necessariamente per il caporale. La situazione è molto sott'occhio, tanto che oggi leggo una pagina intera di Repubblica di Giuliano Foschini, parla del piano dell'INPS. Il professor Tito Boeri sta preparando la bozza di un piano per provvedere a fronte di questo problema antico quanto dilagante, quanto ancora presente anche nella economia attuale, in cui i problemi sembrano essere due: da una parte i caporali, che ancora sembrano un anello indistruttibile della filiera produttiva, anche di quei prodotti dei quali noi ci vantiamo, che sono l'ultimo baluardo, il nostro orgoglio, il made in Italy, l'alimentazione, il cibo, il food, come più facile dirlo, o anche un altro fenomeno collaterale, che non ha nulla a che fare con il caporalato, ma comunque in qualche maniera inquina una visione serena di quello che è il lavoro del bracciante agricolo. Sono i finti braccianti, quelli che a un certo punto usufruiscono delle provvigioni per la disoccupazione o per l'occupazione, ma in realtà non fanno nulla. Questo però è più un problema dell'INPS. Questa mattina ci occupiamo dei caporali. Ne avete sentito parlare? È una realtà che conoscete? È una realtà che si manifesta palesemente tollerata alle vostre latitudini? Beh, questa è la mattina per parlarne. 800 24 00 24. 40 euro al giorno al bracciante e la metà circa al mediatore. L'equazione alla base del fenomeno del caporalato fa girare milioni di euro che sfuggono al fisco e alimentano una rete mafiosa criminale. È il quadro che emerge da un'inchiesta delle Fiamme Gialle, che ha messo sotto la lente un'organizzazione di sfruttatori nelle campagne foggiane. E pur di mantenere il controllo sui lavoratori, uno degli esponenti è pronto a usare ogni mezzo, dal ricatto all'intimidazione, alle minacce di violenza fisica. Controlli a tappeto, fino a prevedere nei casi più gravi la confisca dei beni e dei terreni. E norme più chiare sui permessi di lavoro. Sarà una strategia in 15 giorni a tutto campo e coordinata tra i ministeri chiave, agricoltura, lavoro e Viminale, quella che il governo intende mettere a punto per combattere l'emergenza caporalato. Queste sono cronache prese dal TG5, la Repubblica.it, da via via quando la notizia, il termine caporalato, esce nelle cronache. Esce, però sembra rimbalzare perlomeno nelle orecchie di chi non è toccato territorialmente da vicino da questo fenomeno. Giulia Bondi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giulia Bondi è una giornalista freelance, ha curato un reportage per Redattore Sociale sulla grande baraccopoli di braccianti immigrati di Rignano Garganico. Partiamo da te perché vogliamo una rappresentazione concreta, reale, sulla carne di chi patisce, chi subisce questo fenomeno, per far capire di cosa si tratta e non sia un termine soltanto astratto o legato a situazioni marginali, lontane, locali, che si perdono nel tempo. Cosa hai visto e cosa racconterai per Redattore Sociale? Io ho vissuto una decina di giorni nel mese di agosto all'interno di una baracca del ghetto di Rignano Garganico. È una città, veramente si può dire una piccola città, che si trova a 14 chilometri da Foggia, dal centro di Foggia, quindi non così distante, ma in realtà sembra quasi di attraversare un confine invisibile e di entrare in un posto al di fuori della legge. È una città all'interno della quale appunto si vive in baracche di plastica e cartone, non c'è acqua corrente, ci sono solo 3 punti per attingere acqua non potabile per lavarsi, e c'è una cisterna che arriva quotidianamente a portare un po' di acqua potabile, e l'elettricità naturalmente non c'è, viene fornita a pagamento dai gestori di negozietti e ristoranti che hanno i generatori. E appunto quello che forse non ci si aspetta è che all'interno di questa città dei braccianti dell'Africa occidentale ci sono tantissimi servizi forniti da un mercato informale che vende e produce tutto quello che può essere necessario richiedere, cioè persino chi scalda l'acqua per venderla riscaldata a chi può permettersi una doccia calda. Ecco, questi braccianti cosa vengono a fare? Da dove vengono e cosa vengono a fare? Allora, nel ghetto di Rignano Garganico la provenienza geografica è prevalentemente dai paesi dell'Africa occidentale francofona, e il periodo diciamo di punta è quello della raccolta del pomodoro. La regione della Capitanata, del Foggiano, è una delle regioni più importanti per il pomodoro, che poi è destinato all'industria della conservazione, e quindi ad essere trasformato in passata, in pelati, in pomodoro a pezzi, eccetera. E i braccianti appunto durante la mattina, nelle primissime ore della mattina, è un punto di incontro con i cosiddetti caporali, che sono i mediatori, per poi portarli a lavorare nei campi, soprattutto nella raccolta di pomodoro. Poi in realtà sono immigrati diciamo regolari o clandestini, o vivono in clandestinità, diciamo sono persone che in realtà non dovrebbero starceli, tanto per capire anche il margine di ricatto che queste persone subiscono. Allora, questa è una delle cose più interessanti, perché la popolazione dei braccianti è estremamente varia. Ci sono richiedenti asilo, quindi persone che sono regolarmente in Italia in attesa di ricevere una risposta poi sui loro documenti. Ci vuole un anno circa, mi sembra di aver capito. Ci può volere un anno, ci può volere anche più tempo, in realtà, come quella di cui si è tanto parlato, del CARA di Mineo, ci sono tempi di attesa anche di un anno e mezzo, due. E nel frattempo devono vivere, quindi lavorano, tutto sommato mi sembra una soluzione dal loro punto di vista accettabile. Devono vivere in Italia, quindi cercano un lavoro. Esatto, nel frattempo diciamo ci sono molte persone che piuttosto che vivere con le mani in mano si allontanano dai centri in cui sono accolti. C'è la possibilità di farlo anche legalmente, di dichiarare al gestore del centro che ci si allontana per 15 giorni per esempio, e per lavorare. Ovviamente però il lavoro poi si svolge in nero, perché l'autorizzazione per lavorare per loro non c'è. Quindi non potrebbero altrimenti lavorare se non passando per i caporali? Per quanto mi risulta no, non potrebbero lavorare diversamente, non avrebbero la possibilità, magari non avrebbero neanche i contatti comunque, mentre invece con il caporalato diciamo che per loro se c'è una condizione di efficienza, nel senso che se si trovano sul posto e sono robusti possono lavorare. Quindi funziona la mattina come accadeva nei vecchi film e nei documentari, arrivano con il camioncino, li scelgono, li prendono, li portano via. Esatto, dipende dalle giornate in cui c'è più bisogno, ci sono più campi pronti, non è piovuto, eccetera, e le persone che sono disponibili a lavorare vengono scelte e poi portate nei campi dove lavorano prevalentemente a cottimo, quindi venendo pagati rispetto a quanti cassoni di pomodoro da 300-400 kg riescono a riempire. Ecco, prova a descrivermi, visto che l'hai seguito, la giornata tipo di un bracciante. Lascia il centro, si avvicina al posto dove può lavorare, si mette a aspettare la mattina, penso la mattina all'alba, presto, insieme agli altri suoi compagni d'avventura, che arrivi il caporale, spera di essere prescelto. Una volta scelto, lo viene portato. Una volta scelto, allora io devo premettere che io non sono riuscita a seguirli sui campi perché per me non era possibile fare questo passaggio. Non, non riuscivi a essere con loro. A passare per un'immigrata? No, no, non riuscivo, anche se c'è un giovane giornalista togolese che ha fatto questo, ha scritto anche un reportage su questo, proprio fingendosi un italiano di origine togolese che ha fatto tutto questo. Per me non era possibile, io passavo la giornata al ghetto all'interno del progetto di Radio Ghetto Voci Libere che si svolgeva lì. I ragazzi ovviamente che partecipavano alla nostra radio ci raccontavano la loro giornata, quindi sì, se vieni scelto sali su un furgone che in genere sono furgoni rubati senza documenti, con spesso con targhe straniere ma non solo, vieni caricato all'inverosimile, stipati all'inverosimile dentro questi furgoni anche in 30 persone nel retro di un furgoncino Ducato che ne potrebbe portare 9, portati sui campi. Poi sui campi, se i cassoni sono già pronti, disposti, si incomincia la giornata di lavoro a cottimo, quindi fila per fila si raccolgono i pomodori e si riempiono i cassoni e si lavora fino a quando c'è lavoro, cioè fino a quando ci sono pomodori da raccogliere e anche fino a quando arrivano i camion che li prendono. Quindi la giornata è molto variabile, uno quando parte sa solo che pagherà i 5 euro di trasporto al caporale, ma non sa quanto potrà guadagnare in quel giorno. Perché ripeti la percentuale che prende poi il caporale sul lavoro quotidiano. Allora, il caporale prende generalmente un fisso per il trasporto, sì, che è di 5 euro, sì, e poi il cassone di pomodoro generalmente viene pagato al caporale stesso 5 euro e lui al bracciante ne dà in genere solo 3,50, quindi si trattiene 1,50 euro per ogni cassone caricato. Però 5 gliene ha dati, in realtà deve fare, per cominciare a fare qualche euro, almeno 2 cassoni deve riempire, per cominciare a mettersi qualcosa in esatto, tasca. Esatto, esattamente. Fermati un attimo, perché io all'inizio ho detto che mi sembrava un termine arcaico, me lo conferma Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Questo racconto della nostra collega, racconto dell'attualità di questi giorni, a cosa la riporta? Mi riporta indietro di tantissimi anni, quando mia mamma nella provincia di Avellino andavano nel Foggiano, facevano questo tipo di calvario, cioè voglio dire, ma dove sono state le autorità che sapevano, sanno questo fenomeno così? Beh, c'è bisogno che muoia una donna perché si riscopre all'improvviso che c'è il caporalato. Ma la polizia, i giudici, tutto, ma dove sono stati tutti questi anni? Ecco, lei dei ricordi, dei racconti di sua madre, può trasferirci qualcosa per fare proprio per capire, allora, in 50 anni quanto poco è cambiato? Mia mamma aveva un pudore che, non dico che si vergognava, ma soffriva dentro e quindi ci diceva poco, molto poco. Quello che ci diceva è che erano maltrattati, non avevano il tempo di mangiare, non avevano il tempo di fare i propri bisogni. Questo so esattamente quello che ricordo. E sua madre ha fatto faceva più o meno questo stesso lavoro, andava pomodori, uva, caldi terribili, cioè voglio dire nel Foggiano, ma voglio dire, la gente oggi scopre che c'è il caporalato. Grazie 800240024, ricordo che stamattina parliamo del caporalato. Lascia anche a me piuttosto perplesso il fatto che sotto gli occhi di tutti, palesemente, probabilmente perché le vittime sono persone che non hanno patria e non hanno garanzie, non voglio fare il populista in questo, poi di cui nessuno gliene importa niente, poi quando muore una donna italiana che esce nei giornali probabilmente se ne parla un po' più, come è accaduto qualche tempo fa in Puglia. Volevo sentire, mentre Giulia Bondi continuerà con il suo racconto interessante del suo reportage fatto nel centro della baraccopoli di Rignano Garganico, in cui lei ha vissuto proprio per alcuni giorni, Giulia Anita Bari, buongiorno. Buongiorno. Coordinatrice del progetto Terra Giusta di MEDU, Medici per i Diritti Umani, che sono medici che presenziano il territorio con unità mobili di assistenza medica, fanno monitoraggio, soprattutto mi sembra in Basilicata e Puglia, hanno pubblicato un rapporto Terra Ingiusta. Mi faccia capire, è così strano e così singolare, non dovrebbe destarci meraviglia il fatto che negli ultimi 50 anni sia rimasta praticamente immutata la situazione del rapporto fra caporali, proprietari terrieri, persone che gestiscono il prodotto, e braccianti, siano essi italiani o stranieri? Ma Assolutamente, come spesso poi si legge, il fenomeno è rimasto immutato. Ovviamente quelli che sono cambiati sono i connotati, nel senso che si parla adesso di caporalato etnico, perché la manodopera è cambiata, essendo cambiata la manodopera, che oggigiorno è straniera ed è soprattutto rumena. Io dagli anni Ottanta che seguo un po' la questione dal Casertano alla Puglia, già da allora si ricorda quando ci furono i casi, primo caso di un bracciante africano che morì, ci fu un problema nel Casertano, è tanti anni ormai. Assolutamente, sono tantissimi anni e sono state tentate delle strategie. Penso adesso in Basilicata, dove noi stiamo lavorando, la regione Basilicata ha creato una task force che, diciamo, ha cercato di risolvere il problema, quantomeno di affrontarlo in maniera olistica, quindi da una parte mettendo a disposizione dei centri di accoglienza per i lavoratori in due zone, che è quella di Venosa e quella di Palazzo San Gervasio, e dall'altra parte di riattivare strumenti che sono sempre esistiti, cioè le liste di prenotazione, cioè il collocamento pubblico. Quello che manca è un'organizzazione del lavoro, è un incontro reale tra la manodopera, gli operai e la richiesta di lavoro. Nel momento in cui il pubblico non riesce a organizzare, a mettere insieme questi due elementi, è chiaro che continua ad essere presente la figura del caporale, che oltre ovviamente alla veramente discutibile diciamo ruolo di, come dire, prendere delle tangenti dai lavoratori, però svolge anche un ruolo logistico, cioè riesce a spostare la manodopera e riesce a fisicamente a ricongiungere il datore di lavoro con l'operaio. Allora, lei dice, non per essere cinici, ma alla fine chi ha i pomodori che stanno marcendo sui campi ha bisogno di gente che li raccolga, tutto sommato chiude anche un occhio sul fatto che a portargli sia un caporale, perché altrimenti nessun altro ha una struttura e una logistica pensata per portare dei lavoratori dal luogo di richiesta del lavoro al luogo di svolgimento del lavoro stesso. No. Guardi, io credo che per esempio in un territorio comunque contenuto come quello della Basilicata questo ruolo potrebbe benissimo gestirlo il pubblico insieme all'organizzazione dei datori di lavoro, quindi con Coldiretti, Confagricoltura, cioè nel momento in cui viene organizzata la catena di trasformazione non ci dovrebbe essere bisogno proprio di nessun caporale a quel punto. No, a me viene da ridere pensando che poi alla fine noi in questo momento ci riempiamo tutti d'orgoglio, ma anche giustamente, per il Made in Italy è in corso Expo che è, diciamo, certo. Calabase però del nostro prodotto principe, della base di tutte le nostre glorie culinarie, ci sia ancora qualcosa di così antico, così arcaico e così scellerato, mi fa riflettere. Assolutamente, noi abbiamo testimonianze perché noi, diciamo, lavorando costantemente nei ghetti e nei campi, andando a volte anche a lavorare con loro per capire quali sono effettivamente le problematiche, no, del lavoratore dal punto di vista sanitario. Ma in quanto medici, ecco, avete anche, diciamo, un occhio all'aspetto sanitario, epidemiologico, certo. E cosa accade in questi luoghi? Ma in realtà i principali problemi che noi abbiamo rilevato dal punto di vista appunto delle patologie sono legati appunto proprio ai luoghi di vita e di lavoro, cioè le persone che la maggior parte dei quali hanno un regolare permesso di soggiorno, sfatiamo questa cosa perché sono la maggior parte sono regolari, non arrivano con delle patologie dai loro paesi di origine ma si ammalano in Italia, perché le principali patologie rilevate sono patologie gastrointestinali, patologie delle vie respiratorie e osteomuscolari, cioè patologie legate da una parte ai luoghi di lavoro in cui ovviamente lavorano per un enorme, insomma anche 6, 7, 8, 9, 10 ore in maniera continuativa senza che venga dato uno stop alla squadra, spesso magari senza cappelli, quindi sotto il sole eccetera, o patologie gastrointestinali alle vie respiratorie. Perché? Perché queste persone finite le 8, 9, 10 ore nei campi tornano in casa senza luce, senza servizi igienici, senza acqua potabile, lavandosi e producendo, diciamo, il cibo che poi mangeranno all'interno di strutture di lamiera col fuoco, come si faceva diciamo, questo tipo di attività lavoro. Questo mondo che lei sta descrivendo, sì. E continuerà poi a descriverci la collega dopo la pausa, è naturalmente basato su un principio fondamentale che è l'illegalità tollerata, condivisa. Non mi sembra che sia una realtà così nascosta che occorra essere degli Sherlock Holmes per poterla vedere, è sotto gli occhi di tutti. Come mai questo accade? Qual è, diciamo, almeno per l'idea che si è fatta lei, perché questa cosa è esattamente come era 50 anni fa e nulla cambia? Perché non è un problema nazionale così sentito prima che ne parlasse Renzi? Perché in fondo è un lubrificante l'economia necessario e indispensabile? O perché attecchisce nella malavita organizzata, una delle tante attività su cui non si riesce a fare nulla? Io credo che sia una combinazione di fattori. Da una parte sicuramente c'è un problema culturale, nel senso che è una arretratezza a livello di organizzazione del lavoro e di raccolta, cioè un'agricoltura meno sviluppata, quindi si usano ancora le mani degli uomini perché le mani sono più convenienti. Attraverso l'uso delle mani tu puoi fare più nero, no? Puoi evadere molto più facilmente perché ecco, tu schiacci ancora di più i salari dei lavoratori. Allora, ci fermiamo un istante e devo dare la linea. Commento la telefonata di un ascoltatore. Ancora parlate di caporalato, che significa senza diritti e lavoro in nero e sfruttamenti, ma quelli che lavorano con partita IVA e come ricercatore, come volontariato, senza nessun diritto, come li chiamate? Schiavi dello Stato? Ma basta con queste cazzate. Ma parleremo di tutti. È un fenomeno che è apparso finalmente all'onore delle cronache, vogliamo capire cosa ci sia dietro. Lei ricercatore, partita IVA, pieno rispetto, capisco anche i suoi problemi, provi a andare a passare una settimana a raccogliere i pomodori in una baracca, poi mi dica chi dei due si trova in una situazione migliore. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800240024, questa mattina stiamo parlando del tema del caporalato, un tema che non credete che riguardi soltanto i braccianti neri, di cui non può importare niente a nessuno, che non dovrebbero essere, andrebbero aiutati nel loro paese, possiamo dire quello che vogliamo e tutta la demagogia o la velleità di risolvere i problemi che possiamo vedere espressa in questi giorni, nelle stampa, nei giornali, nelle dichiarazioni politici, ma è un tema che riguarda anche noi italiani, se può essere fatta questa differenza. Ricordo che una frase che ha detto il procuratore di Andria, che si occupa del caso di Paola Clemente, una bracciante di 49 anni, di Andria, italianissima, che è morta sul campo per un malore. Aveva dei problemi fisici, ha preferito andare a lavorare, è stata aperta un'inchiesta a luglio, metà luglio, una signora di Andria è morta. E il procuratore ha detto, ma è un fenomeno che è un muro di gomma. Dice, perché preferiscono guadagnare pochi spiccioli le persone del posto, essere nella maglia dei caporali, che in fondo conviene a tutti, conviene a loro, prendono alcuni soldi al nero e non devono dichiararli, conviene al datore di lavoro e si trova dei braccianti a prezzo economico e può eludere anche la giusta denuncia di quello che raccoglie, conviene a tutti, quindi è molto difficile. Ricordo che nel 2011 ci furono anche altri 4 operai che morirono sempre in Puglia in un crollo, sempre legata alla vicenda dei caporali. Aperta un'inchiesta, sono stati iscritti al registro degli indagati alcune persone, l'autista del pullman, i caporali, via dicendo, però sembra che sia un sistema più legato comunque a una sorta di sottoeconomia di sopravvivenza in certe regioni d'Italia, non so se in tutte, non so in quante. Sentiamo Omar. Omar, buongiorno. Buongiorno, io sono di Brescia, sono da 18 anni che sono qua in Italia. Sì. Ormai adesso ho preso anche la cittadinanza, ma io sono stato lì a lavorare, ma ti sfruttano dalla mattina alla sera. Dove ha lavorato lei, Omar? A Manfredonia, penso, Manfredonia sì, erano. Certo. Sì, sempre in Puglia, sì. Perché lì ti sfruttano come, non so, come dei schiavi. Allora non cos'era, clandestino, era appena arrivato in Italia? No, sì, di solito quelli che lo fanno tutti quasi non hanno i documenti, perché se non hai i documenti dicono guarda adesso l'unica cosa da fare è devi fare un salto di là, cerca di raccogliere pomodoro per guadagnare qualcosa la vita, hai capito? Lei per quanto tempo ha raccolto pomodoro, Omar? Allora, sinceramente un mesetto, qualcosa del genere, perché dopo sono scappato, perché non riuscivo neanche, perché i geni sanitari, non avevamo neanche un bagno, ci sono delle, come se, delle case abbandonate di là e gli italiani anche loro hanno anche le mani su, perché sanno quello che stiamo vivendo di là, se ne fregano, si ti lamenti, ti mettono in parte e non te ne prendono più, hai capito? Quindi certo, uno deve stare zitto, mangiava pure pomodori, cioè raccoglieva pomodori, mangiava pomodori. A volte mi guarda, giuro su quello che vuoi, a volte mi veniva di fame, non sapevo cosa, devo mangiare i pomodori, quelli almeno che già bruciati con il sole per tenermi su, hai capito? Non avevamo neanche doccia e secondo me lo sanno anche lo Stato, perché io sto parlando da 18 anni fa, vuol dire che lì giravano a volte poliziotti ma facevano finta di nulla, hai capito? Perché sanno che cosa sta succedendo sui campi, ma nessuna reazione. Adesso io l'Italia, io dico una cosa. Lei cosa fa adesso, Omar? Lei cosa fa? Adesso sono un operaio, giuro che lavoro una ditta che sono... Ma ci credo, lei deve giurare ogni parola che dice. No, dico perché la sincerità adesso non c'è più, a volte anche magari giurando. Non cambia niente, mica vengono i fulmini dal cielo se uno giura. No, ti dico soltanto una cosa, tante volte volevo entrare nella tua trasmissione, ma però ti dicono, guarda, io dico l'Italia, non potete volendo come si chiama, i clandestini di notte, dopo il giorno volete cacciarli via, perché li cercano per usare, vanno, sanno dove trovano, anche noi ti cercano con il telefono, ti contattano, allora ti dicono questo, si sfruttano, anche se ti portano dei campi, devi dare, io mi ricordo le lire, ogni cassa dovevo 5 lire che dovevano pagarmi, se ti portano nei campi devi lasciare il capo rolato, non lo so, 5 euro, ti battevano una macchina per 5 persone, eravamo anche dietro dove ci mettono i bagagli, c'erano 3 persone perché c'hai voglia di lavorare, hai capito? Ma io sinceramente volevo fare questa intervista perché mi è toccata veramente, perché ho vissuto quelle là, non avevamo, per andare in bagno devi prendere magari l'acqua, andare nei campi, farlo come fanno gli animali, hai capito? Io sinceramente... Beh, diciamo che... Anche i nostri contadini l'hanno sempre fatta nei campi, non è che c'era il bagno chimico nei campi. No, io vengo dalla campagna, carità, sono stato c'è l'età di 20 anni. Chi lavora ai campi l'ha sempre fatta nei campi. Quello non no, è cosa. No, volevo capire una cosa. Secondo me lo Stato, non lo so, dovevano fare qualcosa, perché sanno che la gente sfruttano, la gente lo sanno, ma perché aspettano che muoiono di qua o di là per intervenire adesso? Beh, Omar, a lei è andata bene. Comunque, lei in questo momento è operaio, tranquillizzato, regolarizzato, e ci ha raccontato la sua esperienza. Mi fa piacere. Lorenzo. Buongiorno Nicoletti. Sì. Beh, direi che purtroppo è la chiara dimostrazione che lo Stato non c'è e non c'è mai stato, perché è assurdo sentire quello che dice una giornalista con dei dettagli talmente così evidenti, che vuol dire che veramente non c'è lo Stato, e quando non c'è lo Stato possono succedere queste cose. E quando non c'è lo Stato veramente diventa tutto difficile per tutti. Va bene, questo si può dire di qualunque cosa, però. Rino, Rino, buongiorno. Sì, buongiorno. Non basta dire non c'è lo Stato, ok? Non c'è lo Stato, bisogna capire quali sono le circostanze aggravanti per cui un fenomeno è rimasto da riso amaro oggi oppure da immutato nel nostro paese. Rino, vediamo. Sì, buongiorno, io sono Mestrici. Sì, volevo dire che questa storia... Lei chi è? Cosa fa nella vita, Rino? Io attualmente sono un piccolo imprenditore. Dove? In che zona d'Italia? In Lombardia. Dico, cosa produce? Io produco olio e sottoli. E lei per raccogliere le olive usa materiale umano? No, tutto questo niente, anche perché commercializziamo queste cose qua. Però io ho fatto questo tipo di lavoro tanti anni fa. Cosa, il caporale? No, sono andato a raccogliere i pomodori. Ah, lei raccoglie i pomodori? Sì, ho raccolto tanti di quei pomodori, ho mangiato tanti di quei pomodori che la metà basta. E di conseguenza voglio dire che il caporalato c'è sempre stato, ma il problema maggiore, guardando anche oggi sono i prezzi, che a volte non sto giustificando l'assunzione di queste persone, però a volte anche lo Stato o chi diciamo stabilisce questi prezzi dei prodotti, che sono così bassi, ma così bassi, che a volte o conviene buttarli o conviene lasciarli là oppure si deve arrangiare in un determinato modo per raccogliere questi prodotti. Adesso stiamo subendo, stiamo vedendo il discorso uva, perché siamo pronti al raccolto. E se vi dico il prezzo che sta oggi come oggi sulla piazza di Foggia, c'è da mettere le mani nei capelli. Allora uno dice: cosa faccio? Lei dice valgono così poco che se non ci lavorassero, se dovesse lavorarci, l'altro giorno mi ha chiamato un mediatore e sì, mi ha detto: se vuoi vendere l'uva, 15 euro al quintale. Al quintale devo portarla alla cantina, devo pagare un euro di trasporto e poi devo pagare la manodopera per tagliare questa cavolo di uva. Allora, di conseguenza, fatemi voi un po' la cortesia per capire un attimino dove è il discorso. Lei dice, poi dice, se uno non usa questa manodopera a prezzo stracciato... Ma a volte non è che si voglia usare questa manodopera. Io, ripeto, quando andavo io in campagna ho sempre pagato il caporale che ci veniva a prendere e ci portava in campagna. Il problema è il discorso, perché se uno vendesse il prodotto a un determinato prezzo, un prezzo normale, assumerebbe anche persone dove la giornata lavorativa si paga tot, dove si paga tot, cioè andrebbe tutto bene. Fermo un attimo, è chiaro, Ivan Sagné, so pronunciato bene, è caduto, era responsabile immigrazione della Fly CGL Puglia, un ex bracciante, anche lui ci racconterà quello che è il punto visto dalla sua esperienza personale, ma in una collocazione più generale. Allora, a questo punto io do la linea come necessario a chi me la chiede e prego le due ospiti che sono in ascolto di attendere un attimo, perché nella terza e ultima parte della trasmissione rifarò fare un commento e una riflessione a entrambe, sia alla giornalista che ha raccontato il reportage per il redattore sociale, sia a Giulia Nita Bari che lavora per i medici per i diritti umani e conosce bene il problema. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Stiamo questa mattina parlando di caporalato. Vedo che ci sono molti messaggi in SMS, mi sembra che il tema sia sentito ma attraverso una forte circostanza additiva emotiva. Nicoletti, ma che cazzo dici? La signora, come anche altra gente, va a lavorare nelle terre perché ha le pezze al culo, non perché preferisce il nero. Non ragioni. Beh, non è esattamente così. Uno può avere le pezze al culo, ma non necessariamente avere le pezze al culo significa scegliere la via facile di comunque lavorare a Reno. Aveva le pezze al culo, benissimo, ma disgraziatamente era la vittima forse più debole di un sistema infame che gioca proprio sul fatto che le persone abbiano le pezze al culo. Avere le pezze al culo non giustifica il fatto che comunque sia tutto rimanga negli ultimi 50 anni immutato. Ci saranno sempre al mondo persone con le pezze al culo, noi dobbiamo comunque far vedere quali sono i meccanismi per cui quelle pezze possono essere ridotte attraverso meccanismi legali, non legali. L'illegalità va a supplire laddove la legalità sembra che non possa fare altro che alzare le braccia. Giulia Biondi, mi sono interrotto, ci avevi iniziato il tuo racconto, una giornalista freelance, ricordo che ha curato un reportage per redattore sociale sugli immigrati di Rignano Garganico. Hai visto te anche situazioni che riguardano non soltanto l'emarginazione legata all'immigrazione, o perlomeno l'humus sociale in cui questa cosa persiste, rimane e viene tollerata? Che atteggiamento ha, proprio per rispondere alle persone che dicono che in fondo c'è una sorta di fato ineluttabile per cui deve sopravvivere questo tipo di meccanismo? Ma intanto credo che una cosa molto interessante già detta da Giulia Nita Bari sia il fatto che molti dei braccianti sono stranieri regolarmente presenti in Italia, sono persone che magari sono temporaneamente senza lavoro ma che il permesso di soggiorno ce l'hanno e magari hanno tutta una vita in Italia di lavoro dignitoso e duro. Come Omar, che ci ha telefonato, poi da lì è passato, adesso è un operaio, sta al nord Italia, quindi sta bene. Ma anche tantissime persone che vivono questa situazione magari di intermittenza lavorativa adesso, che lavorano nei cantieri o in fabbriche però con contratti temporanei e magari si fanno la stagione estiva per poter guadagnare ancora qualche cosa, per potersi mantenere. Abbiamo incontrato sempre a Radio Ghetto, di cui parlavo prima, incontrato Radio Ghetto, anche spiega studenti. Bene, è la radio, diciamo, che racconta questo tipo di realtà. Sì, ha la radio che praticamente trasmette con un'antenna dall'interno del campo. Le trasmissioni si sono concluse ieri, sono durate per tutta l'estate, dando voce ai braccianti, e lì hanno partecipato tanti dei lavoratori e tanti ragazzi, appunto, che a mio parere sfatano un po' il luogo comune dei disperati, perché invece tante persone che sì, hanno bisogno di lavorare, ma anche giovani studenti che magari hanno fatto l'estate al ghetto o per mantenersi, guadagnare qualcosa per mantenersi un pochino gli studi, o anche solo per rendersi conto di questa situazione, quindi per avere una consapevolezza e pensare insieme a come far sentire la propria voce. Questa secondo me è una cosa molto importante. Aspetta un attimo, Wanda, ascoltatrice Wanda, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. A proposito dell'intervento di quel signore prima, che diceva che i prezzi sono troppo bassi per non doversi rivolgere ai caporali e al lavoro in nero, eccetera. E lui diceva chi è che fa i prezzi? Lo Stato. Ma non è lo Stato, certo, che fa i prezzi. Chi fa i prezzi è la grande distribuzione. E la grande distribuzione o fa questi prezzi, impone questi prezzi. Sono i pomodori vengono dalla Cina, che costano meno. Cioè. No, dalla Cina, dalla Polonia. No. Cioè, capisce, venisse, non lo so, il merluzzo dalla Polonia, ma i pomodori. Io trovo assurdo, inconcepibile, che siano più convenienti i pomodori della Polonia rispetto a quelli dell'Italia, a parte il fatto che non sanno di niente. Ma due supermercati che ho visitato stamattina avevano 5 tipi di pomodori, di cui 3 venivano dall'Olanda, 1 dalla Polonia e solo 1 era italiano. E i prezzi quali erano? Quali erano quelli più costosi? Quelli lì, olandesi, eccetera, no, è il cuore di bue italiano. Il pomodoro italiano era il più costoso. Dagli belli tempi, uno andava al mercato, spiegava i pomodori, erano quelli, fine. Adesso bisogna guardare bene il cartellino e decidere se si prendono quelli, appunto, polacchi. Sì, ma io non ci credo che quelli polacchi siano meglio di quelli italiani. Beh, li assaggi, faccia oggi il ragù, è il momento del soffritto. Non sanno di niente, non sanno. Vabbè, di adesso niente. Parliamo di caporali, di quanto sappiano i pomodori. Roberto, buongiorno. Buongiorno, sì. Nicoletti. La sua idea? La mia idea è questa, che per farli finire questi caporali, che sono non solo nella raccolta del pomodoro, bisogna abolire il denaro contante. Lei che fa opinione, provi a pensare, abolendo il denaro contante aboliamo i caporali, aboliamo i pusher, aboliamo le signorine, che così ci pagano anche le tasse. Io sono d'accordo, guardi, questo è un tema in cui mi trovo perfettamente d'accordo. Io ancora, quando le persone dicono non accettiamo la carta di credito, non puoi pagare col banco, appigliamo solo contante, non ci va la linea, quelle cose lì, c'è sempre puzza dietro di, diciamo, di qualcosa di furbetto. Io sono d'accordo, è chiaro che il problema è soltanto un aspetto, questo, obbligare al bancomat la carta di credito, certo, abolirebbe i caporali, ma la vedrei un po' difficile, sarebbe sempre una maniera comunque di sfruttare. Sono persone, in fondo, le vittime, che non hanno nulla, quindi tantomeno hanno un conto in banca. Flavia, buongiorno. Buongiorno, io volevo soltanto completare il vostro discorso dicendo che voi avete detto che fa comodo a chi paga in nero, fa comodo a questo metodo. Però io volevo anche sottolineare che questo metodo non fa per niente comodo all'agricoltura, che resterà sempre arretrata, perché i pomodori li raccolgono per esempio nel Mantovano con le macchine, senza bisogno di sfruttare nessuno. E i prezzi poi non li dovrebbe fare la grande produzione, ma chi produce in agricoltura deve fare il prezzo. Questo l'Europa deve dire, non la grande distribuzione. Sì, poi mi sembra, sono tutte letture che io accetto e integrano la complessità del tema, ma rimane come questione di fondo che un fenomeno organizzato soprattutto dalla malavita locale e territoriale, totalmente fuori dalla legalità, in cui vengono sfruttati fortemente esseri umani, che permette un'elusione dal punto di vista fiscale enorme, rimanga ancora immutato. Vediamo se, per concludere, Giulia Anita Bari può darci qualche elemento di riflessione in più, soprattutto riguardo a questo loro rapporto terra ingiusta. Ecco, quest'idea di terra ingiusta, al di là delle valutazioni di tipo etico, morale e sociale che possiamo fare, secondo lei qual è la chiave per cui questo fenomeno sembra essere intaccabile dalla civilizzazione, intoccabile dalla civilizzazione? Ma se devo dire la verità, io sono abbastanza d'accordo su una serie di spunti che sono emersi, cioè non vediamo al fenomeno del caporalato, di questi braccianti come, come dire, delle povere persone in dei posti emarginati, eccetera. È un fenomeno che si conosce benissimo, ci stanno di mezzo commercialisti compiacenti, datori di lavoro che fatture che non commercialisti in che senso? Perché il commercialista cosa fa? Poi fa quadrare i conti che altrimenti non quadrerebbero di chi. Guardi, fa... il problema dell'agricoltura, che non è solo il nero che c'è al sud, pensiamo alla Calabria, l'80% dei lavoratori che io ho incontrato non aveva il contratto di lavoro. Ma anche nel nord l'agricoltura in buona parte funziona su meccanismi di lavoro grigio. Abbiamo buste paga formalmente perfette, quindi le persone, quando viene l'ispettore, le buste paga sono perfette, le dico, mi è successo qualche giorno fa in ecco perché serve un commercialista, chiaro. Cioè, una busta paga è perfetta, poi la persona però invece di essere pagata secondo quanto previsto dai salari provinciali del lavoro viene pagata a cottimo con l'utilizzo del caporale che gli prende la tangente e i datori di lavoro ne sono perfettamente. Ecco, vorrei farle sentire adesso un ascoltatore, Otmar, che mi dice che in realtà il problema è facilmente diciamo superabile nell'ambito della legalità. Velocemente, Otmar, dica la sua esperienza, sta chiudendo la trasmissione, proprio in una battuta. Sì, buongiorno. No, io sentivo la vostra trasmissione e ho molti amici che producono mele, noi siamo produttori di mele in Alto Adige e assumono d'estate, assumono molte persone che sono dell'est, che sono dalle varie parti del mondo, insomma, però si lavorano con voucher, ci sono dei controlli molto regolari sia dalla Guardia di Finanza, dall'ispettore del lavoro. E quindi caporali nella raccolta delle mele non ce ne stanno? Ma non li ho mai visti, anch'io da bambino andavo a raccogliere le mele d'estate per guadagnarmi due soldi. Vengono pagati con il voucher, è tutto regolare. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Cappini, grazie agli ospiti, a domani.